Sura 69. Al-Hakka. L'inevitabile. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. L'inevitabile. Cos'è l'inevitabile? Chi mai ti dirà che cos'è l'inevitabile? I Thamud e gli Ad tacciarono di menzogna al cataclisma, ma i Thamud furono sterminati da un grido tremendo, mentre gli Ad furono distrutti da un vento mugghiante, furioso, che Allah scatenò contro di loro per 7 notti e 8 giorni consecutivi. Allora avresti visto quella gente riversa in terra come tronchi cavi di palma. Ne vedi forse uno sopravvissuto? Anche Faraone e coloro che lo precedettero e le città stravolte commisero peccati. Disobbedirono al messaggero del loro Signore ed egli li afferrò con estrema energia. Quando l'acqua dilagò, vi caricammo sull'arca affinché essa diventasse un monito ricordato da ogni orecchio che ricorda. Quando sarà soffiato nel corno la prima volta e la terra e le montagne saranno sollevate e polverizzate in un sol colpo, in quel giorno avverrà l'evento e si spaccherà il cielo, così fragile in quel giorno. Staranno gli angeli ai suoi orizzonti e in quel giorno 8 di loro porteranno il trono del tuo Signore. Sfilerete davanti ad Allah in quel giorno e niente di quel che celate potrà essere nascosto. Chi avrà ricevuto il libro nella mano destra dirà: prendete, leggete il mio libro. Invero sapevo che avrei avuto il mio rendiconto. Egli avrà piacevole esistenza in un giardino elevato, i cui frutti saranno a portata di mano. Mangiate e bevete in pace. È il premio per quel che avete fatto nei giorni passati. Chi invece avrà ricevuto il suo libro nella mano sinistra dirà: ahimè, se solo mi fosse stato consegnato il mio libro e non avessi conosciuto il mio rendiconto. Ahimè, quanto vorrei che essa fosse stata definitiva. Quel che possedevo non mi ha giovato affatto. Ho perso il mio potere. Diranno: afferratelo e mettetelo nei ceppi. Quindi si è precipitato nella fornace, e poi legatelo con una catena di 70 cubiti. Non credeva in Allah, il Supremo, e non esortava a nutrire il povero. Oggi non avrà qui nessun amico sincero, né altro cibo che sanie, che solo i colpevoli mangeranno. Lo giuro per quel che vedete e per quel che non vedete. Questa è in verità la parola di un messaggero nobilissimo. Non è la parola di un poeta. Credetelo per quanto poco crediate. E neanche la parola di un indovino, per quanto poco riflettiate. È una rivelazione venuta dal Signore dei mondi. Se Muhammad ci avesse mendacemente attribuito qualche discorso, lo avremmo certo afferrato per la mano destra e quindi gli avremmo reciso la aorta, e nessuno di voi avrebbe potuto impedircelo. In verità questo è un monito per i timorati di Allah. Sappiamo che tra voi c'è chi lo tratta da bugiardo. In verità ciò sarà un rimpianto per i miscredenti. Questa è l'assoluta certezza. Allora, glorifica il nome del tuo Signore, il Supremo.